ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Mille, da Genova a Capua, di Giuseppe Bandi. A Napoli, sceso che fui a terra, chiesi dove abitasse il generale e facilmente trovai chi si fece premura ad accompagnarmi al palazzo d'Angri in Toledo. Nel palazzo andava e veniva la gente alla bella libera, e questo ci dava pensiero non poco, tanto più che frequenti lettere anonime avvertivano sovente il generale a guardarsi, a non ricevere con la solita facilità persone sconosciute, facendogli sapere che sicari audacissimi prezzolati dalla corte del re Francesco erano in giro per fargli un mal tiro. Il generale rideva di questi benevoli avvertimenti ed era sempre fisso nel proposito di non voler guardia alla porta del palazzo, parendogli che la coscienza pura dovesse essere sufficiente usbergo contro qualunque pericolo. Ma il colonnello Paggi, suo vecchio compagno d'America, che aveva il comando del palazzo, dispose intorno a lui una severa vigilanza e prescrisse a noi un servizio rigorosissimo nell'anticamera. Durante il giorno l'anticamera era piena d'ufficiali, ma nella notte vegliavamo soltanto in due, pigliando qualche riposa a intervalli sopra un materasso disteso innanzi la porta della cameretta del generale. Ora, senta il lettore qual gran peccato di scapataggine mi fe commettere la mia cattiva stella, e quanto poco corse che una imperdonabile dimenticanza non mi rendesse eternamente indegno della stima e dell'affetto dell'uomo che sovra ogni altro amai sulla terra ed amerò finché vita mi resti. M'avviavo allegramente verso la stazione, quando mi imbattei nel colonnello Malenchini, che, accompagnato da parecchi suoi ufficiali, tutti amicissimi miei, veniva su per via Toledo. Ci salutammo, ci abbracciammo, giacché da un pezzo non ci vedevamo, e ci demmo a discorrere di tante cose. Così, discorrendo, siccome un discorso tirava l'altro, passeggiammo alquanto. Quindi andammo a desinare, e poi fummo al caffè. E dimenticata affatto la mia commissione circa i vagoni della strada ferrata, mi trattenni così a lungo con la buona compagnia che feci l'ora del dormire. Gli amici mi accompagnarono sino al palazzo d'Angri. Li lasciai, salii su nell'anticamera dove m'aspettava il romagnolo Faconti, mio compagno di guardia per quella notte. Mi tolsi le scarpe, indi mi stesi sul materasso e non tardai a pigliar sonno. A un tratto, la voce di Garibaldi, benedetta quella voce, mi scuote. Salto su, piglio il lume ed entro in camera. «Comanda, generale!» «Dite, Bandi, siete stato da Sirtori e da Cosens?» «Sì, generale!» «E i vagoni li avete ordinati?» «Badate, quei vagoni mi premono molto!» «Oh Dio! Se nell'udire quelle parole non cascai morto, fu proprio un miracolo di Dio che mi volle bene. Ma che dovevo rispondere? Dovevo dire che m'ero buttata dietro le spalle una commissione di quella sorta?» Accanto al letto del generale c'era un tavolino da notte. Su quel tavolino c'era il suo orologio. I miei occhi si fissarono su quell'orologio e vidi che erano le 11:15. Tutto non è perduto, pensai, e con animo franco apersi bocca per dire una bugia, e la dissi. Rispose infatti, tutto sarà pronto, signor generale, per le 3:30. Va bene, soggiunse il generale, svegliatemi 3:15. Richiusi l'uscio della camera, ero più morto che vivo. Il mio compagno, giovane di forse 20 anni, che poi fu ufficiale dei bersaglieri ed ebbe il dolore di trovarsi ad Aspromonte, dormiva beatamente. Io lo svegliai dicendogli, «Romagnolo caro, aiutami, o son l'uomo più disgraziato di questo mondo e non mi resta che bruciarmi la cervella», e gli narrai quanto mi accadeva. Il buon romagnolo si vestì in fretta dicendomi, «Corriamo insieme alla stazione, non disperarti, forse siamo ancora in tempo a rimediare, perché le altre stazioni sono vicine, ed è facile che in 1 o 2 tutti i vagoni disponibili siano a Napoli». Queste parole mi diebbero. Chiamai le guide che erano di piantone alla porta d'ingresso del palazzo, E detti loro in consegna l'anticamera, e trovata per somma ventura una carrozza, vi salii con Faconti, promettendo al vetturino una piastra o quattro chiattonate a seconda del servizio che mi farebbe. Il vetturino frustò a man salva e in breve fummo alla stazione. Un facchino, che trovai addormentato sull'entrata, mi disse, svegliandosi, che tutti dormivano la bella vita, perché nessun treno correva di nottetempo. E io mi detti a scuoterlo per le braccia, gridando che chiamasse il capostazione, chiamasse il telegrafista, chiamasse tutti quanti poteva chiamare. E insieme al compagno cominciai a suonare campane e campanelle, a dar calce a tutte le porte, accompagnando questa musica coi moccoli più piacevoli che sapessero coniare in un duetto rabbioso un toscano e un romagnolo. Quel chiasso infernale fe sì che una porta s'aprisse e comparve in camicia il capostazione, al quale sembrò senza dubbio che il suo dominio fosse preso d'assalto. Appena lo vidi, pigliai a fargli una gran lavata, chiedendogli se fosse quello il tempo di dormire, mentre avevamo la guerra alle porte della città e mentre il dittatore era in caso di dover muovere truppe da un momento all'altro e faceva calcolo sulla celerità del trasporto per la ferrovia. E tosto, ordinatogli che si vestisse, feci chiamare il telegrafista e quanti altri impiegati erano nella stazione, e in men di quel che si dice ottenni se avvertissero tutti i capi delle stazioni più o men vicine che, riunite le carrozze da uomini, da bagagli e da bestie quante ne trovassero, si facessero premura ad avviarle subito e a gran velocità alla volta di Napoli per un servizio urgentissimo ordinato dal dittatore, minacciando il malanno a chi non obbedisse a puntino. Gli impiegati della stazione, udendomi giurare e minacciare piombe e corda, tremavano come tante foglie e affrettavano a mani giunte le risposte del telegrafo. Finalmente, come Dio volle, il capostazione mi assicurò che tra un'ora e mezza al più 64 vagoni sarebbero stati pronti agli ordini del dittatore, e io respirai. Tornammo allegri come Pasqua al palazzo d'Angri e non pensammo a ripigliar sonno. Un quarto innanzi le tre svegliai il generale ed, offrendogli una buona tazza di caffè, gli dissi: 64 vagoni son pronti, non mi fu possibile averne in maggior numero. Bastano, rispose, e bevuto il caffè si vestì. Due ore dopo le prime truppe garibaldine partivano in ferrovia alla volta di Caserta. Racconto ciò che accadde il giorno 19 settembre per far sapere come in quel giorno Giuseppe Garibaldi corresse pericolo vicinissimo d'esser morto e non fosse debitore della vita se non alla buona fortuna sua. Partimmo da Napoli in ferrovia mentre ancora era buio e giungemmo a Caserta sul far del giorno. Quivi, dopo breve sosta, trovammo le carrozze che ci condussero a San Leucio. Scendemmo e il generale rimandò via le carrozze. Proseguendo a piedi il cammino, giungemmo in un luogo dove la strada, inoltrandosi in una stretta gola fra due colline, fa capo ad una breve pianura che si stende sino al Volturno, innanzi al luogo che è detto Scafo della Formica. Colà ci venne incontro il generale Tour, che aveva disposto per combattere alcune compagnie della sua divisione, le quali cominciavano già a scambiar fucilate con gli avversari regi che costeggiavano la opposta riva del fiume. Pochi momenti dopo il nostro arrivo cominciò a sentirsi il cannone. I regi avevano rinforzato gagliardamente la linea dei loro avamposti e due batterie da campagna avevano preso posizione sulla sponda destra del Volturno. Tour non aveva che due soli cannoni e questi risposero al fuoco dei regi, mentre i nostri cacciatori, sospinti dalla bramosia di misurarsi da vicino col nemico, si avanzavano correndo sino al fiume, non curando le fitte scariche di moschetteria né la mitraglia che seminava la morte nelle loro file. Garibaldi vide agevolmente che Tur si era impegnato in una faccenda assai rischiosa ed aveva trascorsi di gran lunga gli ordini ricevuti, secondo i quali avrebbe dovuto fare una ricognizione, assaggiare le forze del nemico e nulla più. Ma ormai il dado era tratto. Un battaglione, comandato dal Cattabeni, varcando il fiume per il passo di Limatola, s'era spinto su Caiazzo, e non si poteva troncare il combattimento senza sacrificare quel battaglione e senza dare, per la prima volta in quella guerra, lo spettacolo d'una ritirata che avrebbe molto sminuito presso il popolo di Napoli la fama di invincibile che circondava il nome del dittatore. Per la qualcosa, Garibaldi, lasciando Tur che dirigeva la sua fazione asciugandosi tratto tratto con la pezzuola il sangue che gli fluiva dalla bocca, come suol fare chi patisce le mottisi, si incamminò con noi verso un colle che serrava la gola della valle a man sinistra per speculare da quella eminenza la battaglia e per vedere che cosa consigliassero gli avvenimenti. Tornando indietro, ci occorse passare dinanzi all'ambulanza, presso la quale giacevano parecchi feriti, che man mano venivano medicati e messi sulle vetture che dovevano trasportarli a Caserta. Alcuni di quei feriti, assai malconci, si lamentavano, altri piangevano. Appena una voce gridò, «Ecco Garibaldi!», quei poveretti si tacquero e si sollevarono da terra per vederlo e raccolsero quanto fiato avevano per gridare «Viva Garibaldi!». Salimmo sul colle e tosto qualche palla di cannone ci ronzò vicina. Alcuni volontari, che erano stesi in catena sul colle, cominciarono a fuggire, ed uno di essi s'appiattò in una fossa. Garibaldi, vedutolo, gli si fe sopra e, sollevandolo per un braccio, gli disse «O non ti vergogna d'aver paura?». Il volontario, che era un ragazzo poco più che sedicenne, riconosciuto Garibaldi, si fe rosso come il fuoco e, correndo innanzi, sparò il suo fucile contro il vento. Fatta ancora qualche passo, fummo in vetta al colle, dove era una breve spianata, e di lì vedemmo le batterie dei regi che sfolgoravano i nostri di mezzo agli intervalli dei battaglioni, i cui fuochi erano stupendi a vedersi e ordinati come negli esercizi di piazza d'armi. Eravamo 15 o 20 persone intorno al generale e formavamo con lui un bel gruppo che il nemico doveva discernere a meraviglia anche senza l'aiuto del cannocchiale. Garibaldi guardò alquanto la linea del nemico con un binocolo, poi, volgendosi al colonnello Paggi, cominciò a dargli certi ordini. Noi stavamo disposti a semicerchio dinanzi a lui. In quel mentre una granata ronzò sopra di noi e si ruppe con gran fracasso, ed una grossa sua scheggia cadde giù a fittoni come un aerolite ai piedi del generale. Egli non si mosse, ma ci gridò «Scostatevi, tutti!». Ci scostammo chi in qua, chi in là, e fu fortuna che così facessimo, perché un'intera batteria cominciò a sfolgorare la cima del calle, ed avemmo appena il tempo di svignarcela, pigliando un sentiero boscoso che per un altro colle più erto guidava al monte Sant'Angelo. Giunto a Sant'Angelo, il generale, sapendo Tur in gran pericolo e premendogli di aiutarlo col distrarre una parte delle forze nemiche, ordinò un finto attacco contro Capua, attacco che, pel soverchio ardore dei volontari, si risolvette in un attacco vero quanto pazzo contro le mura della fortezza. Vedemmo in quel giorno alcuni battaglioni correre alla baionetta fin sull'orlo del fosso della fortezza e quivi essere decimati dalla mitraglia e quindi pesti dalla cavalleria che uscì tempestando a frotte. Le perdite nostre furono assai gravi in quel giorno, ma parvero compensate ad usura della presa di Caiazzo, vittoria audace e funesta che doveva essere amaramente scontata innanzi che 24 ore fossero corse. Rammento che la brigata, la quale sulla sera andò a rompere il capo contro le mura di Capua, spiegando senza frutto un mirabile ardore, era comandata dal colonnello Puppi, toscano, vecchio ufficiale delle truppe del Granduca e venuto via dall'esercito per certi suoi particolari disgusti. Era costui un vero capo armonico, bizzarro, loquace, tutto di sua testa, suonatore di violino ma non privo di buon cuore e d'ingegno. Lo avevo conosciuto parecchi anni innanzi e gli volevo bene perché la sua compagnia m'era piacevolissima come quella che faceva mirabilmente ufficio di scaccia pensieri. Caso volle che andassi io ad avvertire il colonnello Puppi che il dittatore lo aspettava con la sua brigata a Sant'Angelo, perché il dittatore m'aveva ordinato di recarmi a Caserta e di mandargli a passo di corsa la brigata che troverei sulla piazza del Palazzo Reale. Ero a piedi e la strada era lunga e non era prudenza il perder tempo e risposi «Generale, se vuole che eseguisca presto i suoi ordini, mi faccia dare un cavallo». Tosto fu fatto scendere da cavallo un ungherese, e io salito in sella, ma avviai di galoppo. Giunto sulla piazza di Caserta, vidi parecchie compagnie a bivacco, e chiesi del brigadiere che non sapevo chi fosse. M'accennarono un uomo che dormiva steso per terra ed avvolto in un mantello. Scossi tutt'altro che dolcemente il dormiglione, e questi, svegliandosi a malincuore, mi salutò con un sagrato. Poi, riconosciuto che n'ebbe, esclamò: «O matto del diavolo, di dove sei tu escito? Si diceva per Firenze che i borbonici ti avevano fatto la festa, ed eccoti invece qui, più fresco e più scellerato di prima. Che vuoi da me? Chi ti manda?» «Sta su», risposi, «e fa dare nelle trombe. Garibaldi vuole che tu venga subito meco, ed ei t'aspetta a Sant'Angelo». Il colonnello Puppi accarezzò i suoi gran baffi, fe scorrere la mano sulla sua testa monda e, compiuta così la conciatura, radunò in un baleno la sua piccola brigata e partimmo insieme. Dopo un'ora, o poco più, accadde quel che accadde. Incapace di fermare i suoi soldati che avevano preso la ire e correvano gridando Savoia contro i bastioni della fortezza, galoppò anch'egli all'assalto e una scheggia di mitraglia lo colse nel ventre e l'ebbe rovesciata a terra moribondo. I soldati regi lo raccolsero e lo trassero dentro Capua, dove innanzi notte rese l'anima a Dio. Non conoscevo Mazzini nemmeno di veduta, ma per lungo tempo aveva avuto seco lui corrispondenza epistolare, essendo segretario del Comitato Fiorentino della Giovane Italia. Avevo un desiderio infinito di vederlo, di conoscerlo da vicino, quell'uomo che solo, inerme e fuggiasco, aveva fatto tremare sul trono tutti i tiranni d'Europa. Mi parea mill'anni d'udire quella voce che da lungi aveva tante volte fatto battere il mio cuore e m'aveva spremuto dagli occhi lacrime di dolore e di tenerezza, quella voce che ci aveva confortati a sperare e ci aveva tenuto viva nell'animo la fede nel trionfo prossimo di una causa santa, mentre tutti disperavano, mentre i più si rassegnavano codardamente a vivere e morire schiavi. Io spesso, guardando Garibaldi e pensando a Mazzini, dicevo tra me: qual miracolo d'uomo non avrebbe l'Italia se Garibaldi e Mazzini fossero un uomo solo, se vivesse tra noi un uomo che chiudesse in sé le virtù dell'uno e dell'altro. Ma purtroppo Garibaldi e Mazzini non solo non furono un solo uomo, ma furono quasi sempre discordi, né potrei assicurare che si volessero scambievolmente quel gran bene che molti credono. Io, che sovente volte ho sentito Mazzini giudicare Garibaldi e Garibaldi giudicar Mazzini, tengo per fermo che il bene che questi due grandi uomini si volevano non fosse diverso da quel che sogliono e possono volersi due donne ugualmente belle e carezzate dalla fortuna e dal mondo. Non dirò con questo che si invidiassero, perché la ignobile passione dell'invidia non poteva aver luogo in quelle anime egregie, ma vero è che ogni qualvolta accadde che la somma delle due cose richiedessero necessarie al bene della patria, la concordia di questi due uomini, Mazzini pigliò ombra di Garibaldi, e Garibaldi si guardò da Mazzini come da un consigliere pericoloso e quasi da emulo fatale. In una parola, ciascuno di essi ebbe forse paura di dover correre il rischio di sacrificare all'altro qualche raggio della sua gloria ed apparir secondo accanto a lui. Però è vero che Garibaldi non sdegnò essere secondo a Vittorio Emanuele, mentre Mazzini non volle essere secondo a nessuno. Narrerò adesso come avvenne che in Napoli lo vidi ed ebbi da lui dimostrazione di benevolenza che ricordo e ricorderò per tutta la vita con un sentimento di tenerezza ed orgoglio. Certa sera, parmi fosse quella del 20 settembre, me ne stavo nell'anticamera di Garibaldi leggendo un libro. Eccoti comparire un giovane alto e biondo che con accento veneziano dimandommi: «Il maggiore Bandi è qui? Sono io», risposi. «Allora», soggiunse l'altro, «prenda questa lettera che viene a lei». Appena messi gli occhi sulla sopraccarta, riconobbi la scrittura di Mazzini e guardai stupito il mio interlocutore, che mi rispose con un altro sorriso. Apersi la lettera. Mazzini mi rammentava l'antica nostra relazione e mi pregava di andarla a trovare il dì seguente. Poi mi diceva che annunziassi a Garibaldi il suo arrivo e gli riferissi in qual modo avesse accolto Garibaldi quell'annunzio, senza dubbio per sapere come regolarsi con lui. Andato che se ne fu il visitatore, rilessi la lettera e poi tornai a rileggerla. Ci voleva poco a capire che la venuta di Mazzini avrebbe fatto tutt'altro che comodo al dittatore, in quel momento nel quale si trovava stretto fra quelli che pretendevano l'annessione immediata e quelli che nell'udir discorrere dell'annessione diventavano tanti diavoli. Perciò m'aspettavo che Garibaldi, udendomi annunziargli l'arrivo di Mazzini, m'avrebbe tutt'altro che ringraziato della buona novella, sebbene in quel tempo avesse alquanto cessato dal far di lui quel severo, anzi, acerbo giudizio che ne faceva per lo innanzi e che io aveva spesso udito, non senza gran dispiacere, in Bologna, in Rimini ed in Genova. Il generale s'era coricato da 2 ore e non mi pareva buono il destarlo, ma caso volle che indi a poco mi chiamasse per ordinarmi non ricordo che, onde io, colta al balzo la palla, gli dissi: «Indovini un po', generale, chi è giunto in Napoli?» Garibaldi fissò per qualche istante i suoi occhi nei miei. «Mazzini!» esclamò. «Appunto!» E gli lessi la lettera. «Dite a Mazzini!» ripigliò Garibaldi con voce commossa. «Ditegli che lo accoglierò come un fratello deve accogliere un fratello!» 2 ore innanzigiorno il generale chiamò e volle vestirsi. Mentre beveva il caffè gli chiesi: «Posso ripetere a Mazzini quel che ella mi ha detto?» «Senza dubbio!» «E quando lo vedrà?» «Oggi stesso!» «Ditegli che lo aspetto.» Verso le 11, terminata la mia guardia, andai a casa di Mazzini, e nel battere alla porta mi balzava il cuore. Il grande agitatore era seduto a tavolino e scriveva, col suo eterno sigaro in bocca. Udendo proferire il mio nome, si alzò, e presomi per la mano, mi condusse al balcone che era aperto e m'appoggiò ambo le mani sulle spalle, e dopo avermi fissato in volto con quei suoi occhi d'aquila, mi disse: «Ho tanto piacere di conoscervi di persona e di vedervi con questa camicia addosso. Lo sapete, è un pezzo che vi voglio bene.» Quindi tornò a sedere e pigliò a domandarmi tante cose. Ma accorsi subito che egli era avido di conoscere minutamente tutto quanto accadeva presso il generale, ed io mi proposi di contentarlo sin dove la discrezione me lo concedesse, cioè senza abusare della confidenza dell'uomo che amavo e rispettavo quanto mio padre. E parve rallegrarsi molto udendo da me che Garibaldi lo avrebbe accolto come un fratello e che si proponeva di vederli in quel giorno. E soggiunto che ebbe alcune parole di ammirazione per i meravigliosi fatti operati in Sicilia e in Calabria, mi disse: «Io spero, anzi son certo, che voi farete del vostro meglio per tenere lontani da Garibaldi i cattivi consiglieri e per impedirgli di ascoltare certi pessimi suggerimenti che, presi da lui per buona moneta, trarrebbero seco irreparabile la rovina delle cose nostre.» E qui tolse a discorrere della necessità di ritardare quanto fosse possibile l'annessione al Piemonte, giurando che quell'annessione significherebbe abbandono eterno di Roma e di Venezia al Papa e agli stranieri, e finì col dirmi: «Vi vedo volentieri vicino al generale e in molto credito presso di lui. Cercate di persuaderlo a non lasciarsi cogliere al laccio da Cavour e da Napoleone, e fatevi vedere spesso da me.» Al che io risposi: «Ella si inganna molto se crede che io possa aver qualche peso nei consigli del generale, giacché non sono vicino a lui se non un povero soldato che obbedisce gli ordini che gli si danno. Garibaldi sa quel che fa, e sia pur certo che egli non è uomo da lasciarsi menar pel naso da nessuno.» A questo punto Mazzini mi interruppe con vivacità, facendomi intendere che Garibaldi era purtroppo uomo di buona fede eccessiva e capacissimo d'esser tratto pel naso dai furbi che avevano speculato e speculavano specialmente allora sulla sua semplicità. Capii bene che Mazzini voleva rammentarmi che io ero stato un dei suoi e che intendeva mi conservassi tale anche in casa di Garibaldi. Onde io cercai di persuaderlo che egli mi attribuiva meriti ed influenze che ero 1000 miglia lontano dal possedere, e conclusi: «Veda, noi non parliamo col generale se non quando ci interroga, massime quando si tratta di negozi che non han che fare con le nostre attribuzioni ordinarie. Ora, egli non ha mai dimandato ai suoi aiutanti di campo il loro parere circa l'annessione, e c'è da scommettere che non dimanderà. Per me, Credo che egli farebbe male a lasciarsi trascinare dall'annessione mentre la guerra continua, ma tosto che sia presa Capua, bisognerà pur venire a quel passo. Del resto, ella ci parlerà quanto prima e potrà dirgli l'animo suo. Rifletta poi che intorno a Garibaldi c'è Crispi, c'è Medici, c'è Sirtori, c'è Cosens e ci sono tanti altri che godono meritatamente molto credito presso di lui. Non creda che egli prenda consiglio da me né da altri che son con me. Anche avendo in mano un fascio di ragioni, bisognava stare zitti dinanzi all'eloquenza di quell'uomo che aveva la virtù di innamorare. Perché Giuseppe Mazzini, per dono rarissimo di natura, parlava come scriveva, ed ebbe nella lingua lo stesso fuoco, gli stessi incantesimi che ebbe nella penna. Dal modo col quale m'accomiatò, mi avvidi essergli dispiaciuto che io fossi troppo garibaldino, e giurassi ciecamente sulle parole del maestro, ma io, oltre a non avere autorità né veste per far da consigliere al generale Garibaldi, non pensavo in quel tempo che a combattere i nemici della indipendenza e dell'unità d'Italia, né mi pareva il caso di pensare ad altro. In quello stesso giorno Garibaldi e Mazzini si dividero dopo 10 anni, ma io non assistei al loro incontro. Chi vi fu presente narrommi che i due grandi italiani s'abbracciarono lungamente e versarono affettuose lacrime e poi ragionarono alquanto e si lasciarono amicissimi.